Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. In principio Dio creò il cielo e la terra. Allora tutto era avvolto nelle tenebre. E lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. E Dio disse: sia la luce. E la luce fu. Creare, nella sua accezione più semplicistica, significa far nascere qualcosa che prima non c'era, frutto di intelletto o di manualità, spesso delle due cose insieme. E colui che è in grado di ideare, manifestare o costruire quel qualcosa è talvolta definito come un creativo. Aggettivo dai tempi del primo Rinascimento e sostantivo dagli anni 50 in poi, il termine creativo è oggi impiegato più estesamente per definire diverse professionalità e attitudini. Artisti, scienziati, innovatori, imprenditori e persino matematici. Chiunque può essere creativo. Oggi a Destini Incrociati parliamo della capacità di associare tra loro idee, concetti, fatti che danno origine a innovazioni e scoperte e a risultati originali quanto efficaci. In una parola, appunto, parliamo di creatività. Che cosa sia tecnicamente lo abbiamo chiesto a un'esperta di comunicazione e pubblicità, Anna Maria Testa, autrice per Rizzoli del libro La trama lucente. Per tutto il Novecento si sono date mille definizioni diverse di creatività. Io condivido molto quella data da un matematico, Henri Poincaré, ai primi del Novecento, che dice che creatività è unire elementi esistenti in configurazioni, in strutture nuove che siano utili. Nell'idea di utilità e nell'idea di novità stanno le due coordinate in cui si trova tutta l'innovazione dell'arte, della scienza, della tecnologia che ci fa progredire. Creatività e innovazione. Ed è ancora Anna Maria Testa a ricordarci che se per innovare, cioè per sviluppare un'idea nuova traducendola in un processo o in un prodotto innovativo, è necessario prima averla avuta, l'idea, meno chiaro è invece il concetto che non tutte le idee nuove siano anche valide o appropriate. Perché un'idea possa essere considerata nuova, deve rompere una regola, qualsiasi regola esistente, ma non basta. Anche la pizza al lucido da scarpe è un'idea nuova. Ma perché un'idea possa essere considerata creativa, deve originare una regola nuova e migliore. Quando idee e innovazione vanno a braccetto, per funzionare davvero richiedono un supporto che ai nostri tempi è rappresentato da una cultura d'impresa coraggiosa e pianificata, ma anche di un potente mezzo che le possa portare a essere conosciute dal maggior numero di persone possibile. Parliamo della pubblicità. Ma come nasce questa forma di creatività che mischia impresa e prodotto assieme alle idee e qualche volta all'arte? Ce lo racconta sempre Anna Maria Testa. Tra 800 e 900 l'industria ha bisogno di comunicare a ampie fasce di pubblico, che spesso non sa leggere e scrivere, ma cammina per strada e guarda soprattutto le figure. Ecco che nascono i grandi, bellissimi manifesti, fatti non da addetti ai lavori, perché non esistono ancora le agenzie e i creativi pubblicitari come li conosciamo oggi. Sono i pittori e gli illustratori dell'epoca a fare la pubblicità. In Francia questo coinvolge molti artisti. In Italia non dimentichiamoci che da noi c'è il movimento futurista, che è innamorato della modernità, delle fabbriche, delle macchine, della velocità, di tutto quanto è contemporaneo e nuovo, e quindi guarda anche alla pubblicità come un fenomeno molto interessante. Pubblicità, advertising, reclam, slogan, claim, headline. In qualunque modo si voglia declinare la necessità di comunicare un prodotto, ma anche un messaggio, culturale o politico che sia, la necessità principale è sempre quella di riuscire a raggiungere il maggior numero di persone possibile, convincerle, sedurle e spesso generare in loro bisogni non richiesti, a volte superflui, ma dei quali all'improvviso non possono più fare a meno. Il brand diventa trend. per usare quello che nel mondo pubblicitario è un linguaggio codificato e all'apparenza misterico per iniziati. Copy strategy, concept, lab, pianificazione strategica sono solo alcune delle formule che quotidianamente maneggiano gli art director, i copywriter. Ecco come descrive il consumatore moderno Frédéric Beigbeder, scrittore e pubblicitario francese, all'inizio del libro intitolato Lire 26.300, caustica e personale descrizione del mondo delle grandi agenzie pubblicitarie. Sono un pubblicitario. Ebbene sì, inquino l'universo. Io sono quello che vi vende tutta quella merda. Quello che vi fa sognare cose che non avrete mai. Cielo sempre blu, ragazze sempre belle, una felicità perfetta ritoccata in Photoshop. Immagini leccate, musiche nel vento. Io vi drogo di novità. E il vantaggio della novità è che non resta mai nuova. C'è sempre una novità più nuova che fa invecchiare la precedente. Farvi sbavare è la mia missione. Nel mio mestiere, nessuno desidera la vostra felicità. Perché la gente felice non consuma. Beigbeder è probabilmente vittima dell'alleggiante storico senso di colpa che il pubblicitario prova genericamente nei confronti del suo mestiere, per colpa di una cultura che ha sempre visto le merci e il denaro come qualcosa di deteriore, lontano dalla spiritualità della vera arte, che a suo tempo ha fatto scrivere a Jacques Séguéla, il decano dei pubblicitari francesi, un bestseller dal titolo «Non dite a mia madre che faccio il pubblicitario, lei mi crede pianista in un bordello». La tecnica di intossicazione cerebrale della pubblicità fu propugnata già dal 1899 dall'americano Albert Lasker, il padre del moderno advertising, e diabolicamente ripresa e declinata sotto forma di propaganda nazista da Joseph Goebbels negli anni 30. Ma con l'avvicinarsi dell'arte e della creatività d'autore alle istanze della propaganda fine a se stessa, la pubblicità riesce ad avvicinarsi a sua volta a una vera e propria forma d'arte. Arte e pubblicità ci sono, continuano ad esserci grandi interscambi. Mentre agli inizi del Novecento la pubblicità guarda all'arte o attinge al mercato dell'arte, a fine Novecento si accade il contrario. Molti artisti, pensiamo a Warhol, pescano dal mondo della produzione di immaginario di massa, che è la pubblicità, per ritrasformarlo con uno sguardo artistico. E comunque tuttora molti prodotti pubblicitari si sono avvalsi dell'opera di artisti, pensiamo ai registi del cinema, da Fellini a Tony Scott, a Woody Allen, a fotografi come Newton o la Leibovitz, che hanno lavorato per la produzione di campagne pubblicitarie. Arte e pubblicità negli anni si sono influenzate a vicenda, ma c'è un terzo fattore che ha determinato da sempre i destini di entrambe: l'investimento. Che fosse da parte del committente di un'opera d'arte o del capitano d'industria alla ricerca del modo migliore di far conoscere il suo prodotto, creazione e innovazione hanno sempre avuto bisogno di sostegno economico, di infrastrutture, di strategie imprenditoriali e soprattutto il coraggio di rischiare. Nel 1926, un imprenditore illuminato e coraggioso si aggira tra gli spazi espositivi della 15ª Biennale di Venezia. È in cerca di idee e di artisti a cui affidare il suo nuovo prodotto di punta per poterlo esaltare, dando forma a qualcosa che per sua natura non ne ha. Si occupa infatti di un liquido leggermente alcolico, amaro, di colore rosso e già molto conosciuto, al quale recentemente ha avuto l'idea di aggiungere una dose di anidride carbonica. Il liquore porta il suo stesso cognome. Lui è il nostro primo protagonista. Si chiama Davide Campari. A destini incrociati siamo a Venezia nel 1926 e Davide Campari, imprenditore milanese nel campo dei liquori, si sta aggirando tra gli spazi della Biennale alla ricerca di un'idea che dia forma al suo nuovo e rivoluzionario prodotto, l'aperitivo monodose, basato sulla bevanda alcolica inventata da suo padre anni prima e al quale ha dato il proprio nome, il Bitter Campari, un liquore rosso rubino dalla ricetta segreta. Ma com'è nata l'idea originale di quello che oggi è considerato uno degli alcolici più famosi al mondo? Per scoprirlo, dobbiamo tornare nella Torino della seconda metà dell'Ottocento e recarci al ristorante Cambio, dove intento nel suo lavoro troviamo un giovane pavese innamorato di erbe e di liquori. È il padre di Davide, Gaspare. È noto che a Torino il conte Camillo Benso di Cavour, al ristorante Il Cambio, amasse sedersi ogni giorno a un tavolo accanto alla finestra, in modo da poter vedere mentre mangiava la facciata in mattoni nudi di Palazzo Carignano, allora sede del Parlamento Subalpino. È noto anche che l'esposizione dal palazzo di un fazzoletto bianco significasse l'urgenza della sua presenza e la conseguente interruzione del pranzo, cosa che infastidiva parecchio il conte, noto buongustaio. Non è noto, ma a noi piace crederlo, se Cavour incontri mai Campari o ne degusti uno dei suoi infusi liquorosi o profumati distillati. Ma è certo che è qui che Gaspare, dopo una prima esperienza presso la pasticceria Bass, mette a punto la sua arte. Fa il garzone, poi l'aiuto in cucina. Ma il suo è uno spirito di inventore con qualche punta di stregoneria. Il migliore dei suoi infusi è composto infatti con una ricetta segreta di acqua e alcol come unici ingredienti noti, insieme al colore rosso dovuto al prezioso pigmento di un parassita del fico d'India, la cocciniglia. Il resto, una messe di estratti di erbe e piante aromatiche, è un mistero senza fine. Forte delle sue ricette, Gaspare, dopo qualche anno, acquista un bar a Novara che chiama il Caffè dell'Amicizia, dove perfeziona la sua ricetta di quello che chiama il bitter alla maniera d'Olanda, ovvero alla maniera degli olandesi che per primi hanno cominciato a produrlo, e tra gli altri il Fernet Campari, che lo stesso Gaspare definisce in questo modo. Liquore febbrifugo, vermifugo, tonico calefacente, anticolerico, preparato secondo la formula del dottor Fernet, svedese, dal liquorista Gaspare Campari. Ma Novara va stretta a Gaspare, sempre più lanciato nel mondo dei liquori. Così, nel 1862, trasferisce il suo caffè nel coperto dei Figini a Milano, un caseggiato di portici che attraversa diagonalmente l'attuale Piazza Duomo. Quando il coperto è abbattuto, nel 1867, il caffè Campari è trasferito nell'appena inaugurata galleria Vittorio Emanuele. Puccini e Boito, ricordi ai fratelli Bocconi, famosi avventori del tempo, parlano del nuovo bitter, ancora senza un nome. Alla morte di Gaspare nel 1882 è Davide a gestire quella che ormai è diventata una vera e propria azienda, mentre il fratello Guido dirige il caffè in galleria. Davide, che peraltro ha acquisito una notevole competenza tecnica a Bordeaux, apre una piccola fabbrica di liquori e cerca di perfezionare sempre più il bitter, creando così un nuovo aperitivo fatto con lamponi di montagna macerati nel cognac. Ma un certo intuito di famiglia gli dice che la varietà dei prodotti creati dal padre vanno abbandonati per concentrarsi nelle due specialità di casa. Cerca così di riunire tutta la potenzialità produttiva nel binomio bitter cordial e inizia ad accompagnarlo con una pubblicità altrettanto specializzata. La storia di un marchio che sarà noto in tutto il mondo è soltanto agli inizi. A Destini Incrociati oggi abbiamo intrapreso un happy hour imbevuto di storie. Siamo già stati a Torino, al ristorante Cambio, per bere un elisir di Gaspare Campari e poi al Caffè Campari a Milano per un cordial in compagnia della buona borghesia meneghina. Arriviamo infine a Venezia, alla Biennale del 1926, quando Davide, il figlio di Gaspare Campari, che ormai ha ereditato l'azienda del padre, si è fermato di fronte a un quadro che gli strappa un sorriso di commozione. Si intitola Bitter Campari squisito al Sels. Una nota dall'afflato futurista lo definisce quadro pubblicitario, non cartello, ed è dedicato al commendator Campari. La firma è di un giovane artista trentino, futurista, Fortunato De Pero. Fortunato De Pero. Ha ha ha! Davide Campari sta osservando squisito al Cels, quadro dipinto dal futurista De Pero in omaggio all'azienda, nella speranza di poter presto avere con la stessa una proposta di collaborazione. Campari ha in mano le redini dell'azienda già da 35 anni e ha trasformato le ricette segrete delle sue bibite in un fenomeno internazionale, grazie anche alla particolare attenzione che mette nella comunicazione pubblicitaria di stampo pittorico. Ha affidato a noti illustratori d'avanguardia dell'epoca come Metlikovitz, Dudovic e Mauzon la maggior parte delle affiche, i poster pubblicitari, mostrandosi sempre al passo coi tempi. Ora invece vuole spingersi oltre. Intuisce che la stilizzazione e la semplificazione delle forme che vede sulla tela dell'artista di Rovereto, quell'atmosfera di gioco, ma anche di colorata ironia, rappresentano il futuro, quello della chiarezza del messaggio visivo e verbale. E nessuno, meglio di un futurista, pensa Davide, potrà aiutarlo a colorare quel futuro di rosso cocciniglia. Destini incrociati. A Destini incrociati, Davide Campari, nel 1926, ha deciso di affidare l'immagine pubblicitaria della sua azienda omonima a Fortunato De Pero, un artista 34enne appartenente al movimento futurista. Andiamo a conoscerlo meglio grazie alle parole di Gabriella Belli, direttrice del Museo MART di Rovereto. Fortunato De Pero è un giovane artista che nasce in un paese, in una valle del Trentino, si forma però a Rovereto, che all'epoca è cittadina dell'impero austro-ungarico. Dunque la sua cultura inizialmente è tutta profusa dalle ombre di un simbolismo che va verso la secessione di marca decisamente austriaca. La sua cultura però diventa, grazie anche al trententismo innato che condiziona la sua vita, diventa quasi immediatamente cultura italiana, cultura condivisa del futurismo che conosce nel 13, quando si avvicina a Firenze, si avvicina alla Cerba. Il futurismo è la grande scoperta, il grande entusiasmo di questo giovane artista che alla fine del 14 viene ammesso con una lettera, tra l'altro firma di Boccioni, nel movimento, e nel 15 firma con Valla il manifesto forse più importante e interessante di quella lunga seconda stagione del futurismo, che vuole davvero che l'arte invada la vita e cambi costantemente, continuamente, tutti gli aspetti della vita quotidiana, dalla letteratura alla poesia, dalla moda, addirittura al cibo. Ecco, tutti gli interventi di De Pero vanno in questa direzione. Fortunato De Pero nasce nel 1892 a Fondo, in Val di Non, all'epoca nell'impero austro-ungarico, ma fin da ragazzino si trasferisce a Rovereto, in provincia di Trento, per frequentare la Scuola Reale Elisabettina, istituto superiore a indirizzo di arti applicate, ed è immerso in un ambiente mitteleuropeo in cui si innestano in quegli anni stimoli diversi, dalle istanze irredentiste agli echi della nascente rivoluzione futurista. Ed è proprio il futurismo, movimento al quale De Pero presto si lega, ad aprire la strada al concetto contemporaneo di comunicazione, grazie soprattutto all'opera di Filippo Tommaso Marinetti, che ne è stato il primo e geniale interprete, come spiega Gabriella Belli. Fu consapevole, più di altri intellettuali della sua generazione, che i tempi moderni avrebbero richiesto strumenti sempre più efficaci e sofisticati per comunicare le nuove idee, i nuovi traguardi delle scienze e dell'arte, le incalzanti offerte e i nuovi prodotti di un libero mercato, perché anche in Italia, proprio in quel primo decennio del secolo, era entrato in una fase positiva di sviluppo. Nei primi mesi del 1914, mentre Fortunato è a Roma, dove entra in contatto con il movimento futurista e partecipa all'esposizione Libera Futurista Internazionale, la guerra è alle porte. Le forti tensioni per le aspirazioni nazionalistiche degli stati balcanici culminano in giugno con l'assassinio dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando. È il casus belli che dà inizio al primo conflitto mondiale della storia. Alla notizia dello scoppio della guerra, De Pero intuisce che è meglio rimanere a Roma e diventa allievo prediletto di Giacomo Balla, pittore e scultore di spicco del futurismo. Ma con l'entrata dell'Italia in guerra nel 1915, animato dall'ideologia interventista della quale è imbevuto il futurismo, De Pero decide di arruolarsi volontario. Al fronte scopre però molto presto che la realtà della guerra è qualcosa di molto diverso da proclami e inni patriottici. Finisce per ammalarsi ed è infine esonerato dal servizio militare. Al rientro dal fronte, De Pero si rigetta febbrile nella sua attività di artista. Il suo motto è vedere tutto e sperimentare tutto, riversando la sua versatilità in una sorta di bulimia creativa che gli permette di creare opere di rara efficacia espressiva nel panorama dell'arte moderna europea di quegli anni. Nel 1916 si cimenta nel teatro sperimentale con vari progetti di coreografia. Poi, verso la fine dell'anno, conosce Diaghilev, impresario dei balletti russi, che visita il suo studio e gli commissiona scene e costumi plastici che non vedranno però mai la luce. Sempre in questo periodo incontra il ballerino Massin, il poeta Cocteau e molti artisti, fra cui Picasso, Larionov e la Gonciarova. L'anno successivo è quello dell'incontro con Gilbert Clavel, decadente poeta svizzero con interessi esoterici. Per il suo libro Un istituto per suicidi, realizza illustrazioni a metà tra futurismo ed espressionismo. La sua è un'attività senza sosta. E alla fine della guerra, non ancora trentenne, Fortunato De Pero è saldamente proiettato verso quell'avvenire di innovazione e progresso, fortemente declamato nel Manifesto Futurista. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Non v'è bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli. Perché dovremmo guardarci alle spalle se dobbiamo sfondare le porte misteriose dell'impossibile? 1, 2, 3, 4. Marinetti, bocci, amica, rabba, la palla, seggi. Marinetti, bocci, amica, rabba, la palla, seggi. Future manifesto. L'arte pubblicitaria è fatalmente necessaria, arte fatalmente moderna, arte fatalmente audace, arte fatalmente pagata, arte fatalmente vissuta. Un solo industriale è più utile all'arte moderna e alla nazione che 100 critici, che 1000 inutili parassiti. Con questa roboante massima di De Pero, inserita nel numero unico Futurista Campari, il libro che raccoglie circa 70 grafiche realizzate per l'azienda, l'artista trentino riassume il suo pensiero in merito all'importanza dello sviluppo industriale sostenuto dall'impresa con la I maiuscola e dal sostegno che ad essa possono dare gli artisti attraverso la pratica della pubblicità. Benché io dipinga quotidianamente quadri di libera ispirazione con eguale armonia di stile, con lo stesso amore, con non minore entusiasmo e cura, esalto con la mia fantasia prodotti industriali nostri. A mio parere l'arte dell'avvenire sarà potentemente pubblicitaria. Queste parole sono scritte da De Pero nel 1931. Da qualche anno è iniziata la sua collaborazione con Davide Campari, dopo il loro primo incontro a Venezia nel 1926. Campari ha conosciuto l'artista e la sua passione per l'arte pubblicitaria grazie anche all'opera di sensibilizzazione perpetuata dall'amico Fedele Azzari, una delle più eclettiche personalità del futurismo, che a metà degli anni 20 svolge per De Pero il ruolo di vero e proprio agente, proponendo i suoi bozzetti e dando all'amico suggerimenti, indicazioni pratiche sulla realizzazione delle campagne. Uno dei tanti bozzetti finisce anche sulla scrivania dell'ufficio pubblicità della Campari, dalla quale De Pero attende sospirate risposte, come si intuisce dalla lettera inviata alla moglie Rosetta da Milano il 4 marzo 1926. Cara Rosetta, spero avrai ricevuto le 200 lire. Tutto quello che ti ho potuto spedire. Sono ancora dolori e devo attendere dopo le feste. L'unica soluzione sarà Campari, soluzione che avverrà ma che non è possibile precipitare. È un cliente che occorre trattare con attenzione. Dunque l'abboccamento, che spero conclusivo, sarà mercoledì. Penso che lui desideri cartoline e grandi affiche murali sulla tela. Non voglio nuovamente illudermi e prevedere cifre. Attendo con pazienza, a denti stretti, col pensiero e con il cuore balzante d'affetto per te. L'attesa del futurista ma romantico De Pero non sarà lunga. Campari ha deciso. Sarà lui a occuparsi della campagna di comunicazione dell'azienda praticamente sotto ogni profilo, come ricorda Beatrice Avanzi, tra le curatrici del catalogo De Pero pubblicitario del Mart di Rovereto. Per l'imprenditore milanese, De Pero non realizza solo locandine e manifesti, ma anche lampade, vassoi, apparecchi reclamistici. Progetta un mosaico in vetro, un padiglione pubblicitario concepito secondo i principi dell'architettura tipografica, un film, mettendo in atto una vera e propria campagna di comunicazione che prefigura per molti aspetti le moderne strategie di marketing. Da quel momento seguono anni di proficuo sodalizio, una straordinaria sequenza di invenzioni grafiche, tipografiche, pittoriche, visioni di città, slogan, ghirigori, poesie, architetture. De Pero è l'artefice dell'estetica e del mito di Campari, al punto di identificare la sua arte con il marchio che va a sottendere. Eppure, ciò che legherà per sempre i due uomini dal diverso ma vulcanico ingegno deve ancora manifestarsi. Davide Campari, da qualche tempo, sta meditando su un nuovo prodotto. Una novità destinata a cambiare il modo di bere un alcolico da compagnia. Un aperitivo monodose, asportabile. Il suo bitter, con aggiunta di seltz, da poter essere consumato in ogni momento e in ogni luogo. Come nasce l'idea lo spiega Chiara Bressani, responsabile comunicazione del Museo Campari. Davide Campari riteneva che il modo sublime, perfetto, per bere Campari fosse con il seltz. Ma non tutti i barman sapevano fare la giusta miscelazione. E così nacque l'idea dell'aperitivo monodose, il Campari Soda, che era stato concepito per offrire a tutti i clienti d'Italia la possibilità di consumare un aperitivo impeccabile e uguale ovunque. Davide Campari è convinto che un prodotto del genere meriti un contenitore alla sua altezza. E all'altezza di un tale progetto non può che esserci Fortunato De Pero. Destini incrociati. A destini incrociati, Davide Campari e Fortunato De Pero hanno intrapreso una grande sfida: elevare un prodotto di consumo a manufatto artistico e proiettare la comunicazione pubblicitaria in un futuro che sentono vicino. Far divenire icone normali oggetti di uso comune, attraverso una creatività inconsueta, una ricerca originale declinata in soluzioni estetiche e la scoperta della dimensione artistica del quotidiano. Operazioni che richiedono soprattutto semplicità, come ci spiega Anna Maria Testa. Tutte le volte che un professionista o un artista ha di fronte un problema che riguarda la creatività, lo scatto creativo avviene quando riesce a guardare i suoi problemi, dopo averlo capito fino in fondo, con occhi nuovi. E il risultato deve essere così semplice ed efficace da risultare da una parte sorprendente e dall'altra naturale, cioè la cosa più ovvia da fare, così ovvia che non l'aveva vista nessuno. Forse c'è questa mescolanza di semplicità ed eleganza e normalità imprevedibile dentro l'idea di De Pero di prendere un bicchiere, ribaltarlo e trasformarlo in una bottiglia. De Pero capisce che una bottiglia, anziché un semplice contenitore, può diventare un segnale, un simbolo. Ma per arrivare al maggior numero di persone, deve anche essere un messaggio semplice, diretto, aggressivo ma ammiccante. Il colore rosso vivo di un alcolico che rappresenta la voglia di trasgressione all'interno di un contenitore trasparente che inneschi il desiderio di berlo, ma allo stesso tempo che tranquillizzi sulla semplicità e l'accessibilità del suo utilizzo. Fortunato De Pero si mette al lavoro. Prende un calice di Campari al Seltz e lo gira tra le mani. Lo osserva, lo ripone, lo guarda da ogni sua angolatura, sotto diverse fasi di luce. Sono stati proposti diversi tipi di flacone, come allora è chiamata una bottiglia in gergo industriale, ma nessuno soddisfacente. Così De Pero rivede alcuni bozzetti realizzati già dalla metà degli anni 20, tra i quali uno dal titolo «Pupazzo che beve il Campari Soda», anche se il prodotto cui fa riferimento il titolo è quello preparato dai baristi, e non quello che giungerà sul mercato 7 anni più tardi. Il pupazzo del disegno sorseggia un aperitivo da una bottiglia che sembra avere proprio i tratti della futura bottiglietta del Campari Soda. Capisce che quella è la strada, la conicità rovesciata, una geometria ribaltata. Tutto resta come prima e tutto d'improvviso cambia. Semplice, intuitivo. È geniale. Poiché la gioia calda e vermiglia che il sol ci rifiuta tanor, Campari la chiusa in bottiglia onde tutti ripetono in cor. Anche Campari ci mette del suo. Spoglia la bottiglia dell'etichetta per far risaltare la particolare tonalità di rosso attraverso il vetro. Stampa a rilievo il nome del marchio e della ditta, con l'addizione «Preparazione speciale Davide Campari e C. Milano». I tratti distintivi della bottiglia, la forma, il colore, il materiale, rappresentano con immediata evidenza elementi di rottura rispetto alle convenzioni delle forme pubblicitarie tradizionali dell'epoca. Nel 1932, completati i modelli preparatori, Davide Campari ordina la produzione delle bottiglie alle vetrerie Bordoni di Milano. È il primo premix pronto all'uso nella storia dei prodotti a bassa gradazione alcolica. Le bottiglie, da 9,8 centilitri a forma di calice rovesciato, offrono la perfetta dose da consumare e Campari Soda diviene l'aperitivo da bere in ogni luogo e circostanza. Una rivoluzione per l'epoca, che non si ferma a quella semplice ma straordinaria idea. Il prodotto inventato da Davide e Fortunato inizia un percorso di fama mondiale che ancora oggi ben conosciamo. Invece il rapporto tra futurista e azienda è tuttavia destinato a deteriorarsi fin dai primi anni 30. Ce ne parla ancora Gabriella Belli. La collaborazione intensissima tra il 26 e il 28 si dirada nei primissimi anni 30, per chiudersi definitivamente alla fine di quel decennio con l'amaro rifiuto di 2 progetti pubblicitari da parte della Campari. Era del resto inevitabile che finisse così la collaborazione con una ditta che da tempo basava la propria strategia promozionale su scelte coraggiose e innovative, tali da attribuirle davvero una posizione leader nel panorama dell'industria italiana. Nel 1931 esce comunque il numero unico Futurista Campari, raccolta di nuove immagini pubblicitarie. E per il 1933 De Pero disegna l'albero augurale Campari, l'albero del nuovo anno, una composizione di grande aspetto decorativo con forti impressioni déco, tra gli ultimi lavori di questa fortunata storia di amicizia e di lavoro. Ma non è solo il rapporto di lavoro tra De Pero e l'azienda Campari a finire. Nel 1936 Davide muore. A succedergli sono il fratello Guido, la sorella Eva e il nipote Antonio Migliavacca. Oggi, come ricorda Chiara Bressani, il marchio Campari, conosciuto e distribuito in tutto il mondo, festeggia assieme all'Unità d'Italia i 150 anni di vita. Tra l'altro, ricordo che il marchio Campari ha compiuto lo scorso anno 150 anni di storia, il settembre potrebbe andare a metà d'Italia. E Campari Soda ne compirà 80 l'anno prossimo e siamo sempre giovani. Fortunato De Pero, dalla seconda metà degli anni 30, poco a poco si defila, ritirandosi sempre più nel suo Trentino. Dipinge tematiche alpine e recupera il folklore locale. Si dedica alle molteplici applicazioni del buxus, un materiale che ricicla sottoprodotti di lavorazione, usato per impialliciare i mobili, con cui produce appunto mobili, oggetti e pannelli decorativi. Realizza pubblicità per varie corporazioni e nel 1940 pubblica una monumentale autobiografia, Fortunato De Pero nelle opere e nella vita. in cui riassume quasi 30 anni di attività artistica. Le partecipazioni alle attività ufficiali futuriste si fanno sempre più rare, cosa che provoca da un lato la sua progressiva emarginazione dal movimento, ma dall'altro lo trasformano in una figura quasi leggendaria. Molti saranno i futuristi di terza generazione ad andare in pellegrinaggio in Trentino per rendergli omaggio o per coinvolgerlo in qualche iniziativa. Nel 1957 inizia ad allestire a Rovereto la Galleria Museo De Pero, dedicata alle proprie opere, che sarà inaugurata due anni dopo, nel 1959. De Pero muore nel 1960, dopo la guerra, dove lui rimane comunque confinato in un piccolo paesino del Trentino. Dopo la guerra cerca e inventa nuove conoscenze, naturalmente la pubblicità a questo punto per lui è ormai un capitolo chiuso, e cerca nuove committenze che gli vengono soprattutto dal territorio d'origine, decorazioni di sale, lavori complessi, ma quello che è il suo vero sogno è di creare un museo. Lui, futurista più di un futurista, decide di dare alla propria storia personale, individuale, una memoria, e proprio nel 1957 a Rovereto, lasciando tutto il soldi, il suo patrimonio, il comune della città, riesce ad aprire questo piccolo museo, oggi mirabilmente restaurato, che ci racconta una lunga storia a 370 gradi. De Pero e Campari, nel breve ma intenso tragitto che ha visto incrociare i loro reciproci destini, sono riusciti a elevare la creatività al rango di una nobiltà che fino a quel momento solo l'arte, classicamente intesa, poteva rivendicare. Riescono, grazie a creatività e ingegno, a coniugare il prodotto con la bellezza, l'immagine con l'evocazione. Una lezione che si è tramandata fino alla definizione del concetto moderno di opera di design. E sono davvero rare le occasioni nelle quali si può tenere fra le mani un'opera d'arte che, seppur moltiplicata in miliardi di identiche riproduzioni, riesca a trasmetterci quel medesimo piacere. Non si deve fare altro, nel nostro caso, che procurarsi un flacone al bitter d'Olanda, addizionato di anidride carbonica in giusta misura, osservarne il contenuto di rossa passione e poi chiudere gli occhi e ripensare a tutta la storia di arte, ingegno e pubblicità che vi abbiamo raccontato. Champagne per un dolce segreto per noi. Un amore proibito, ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini Incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.